Vai bello. E sai che giorno è? Che giorno è, bella? Jay Asha, DJ Jack, check it out. Cielo è venerdì, per due giorni mo' è finita. Stasera si va in vita, sei di pomeriggio e sembra che c'è il sole, aria primaverile. Anche febbraio il venerdì a quest'ora rassomiglia aprile, che equivale a magliettine e minigonne, che stile. Suono il clacson se mi piace una, vai bella, splendi come una stella. Stasera caccia grossa coi miei soma, tutti a casa mia prima di cena. Overdose di doccia schiuma, goliardia obbligatoria, rigorosa indisciplina. Poi che si combina, che tipo di cucina? Vada per il messicano, questa sera voglio essere piccante sotto ogni frangente, liberar la mente, non pensare a niente. Capiti quel che capiti, i problemi ci vediamo lunedì. Stasera torno adolescente. Ho qualche minuto per l'aperitivo, la barista oltre al Campari mi fa su un sorriso, quasi mi innamoro. Ma cosa c'hanno tutti il venerdì? Epidemia di buon umore, stasera zero TC, solo ci si butta fuori tipo carnevale a Rio. Portate voi la voglia che animare il party, poi ci penso io. Vai bello, sono il portatore del bordello, il fautore del macello. Il venerdì mi riesce meglio, datemi un microfono e lo squaglio. Con funk a palla che si incolla come la vernice sopra i muri. Non molla, tira di bella, trasforma questa folla in una massa di canguri. Sono la pallina nel flipper, il funky goal ed or. Dopo tanti sbattimenti, guarda quanti punti dentro al mio top score. È venerdì, oggi si raccoglie zero semina. J-Ax e regia spaghetti, quanti illumina. Tipa shakela. Giorni che faccio il bravo tipo Richard Cunningham. Stasera schiocco dita come Arthur Sponzarelli. Faccio giochi di prestigio come Tony Binarelli. Mi sento fortunato manco sia stato baciato dalla dea bendata Nancy Brilli. Tentano di inquadrarti tutti i giorni. Stasera ti consiglio di sfogarti, tanto domani dormi. Mischia ogni essenza di questa atmosfera, beviti la vita in una sorsata intera. Siamo schegge di energia, spruzziamo la città di siloseria. Stasera siamo il colore che si impone sul grigiore. Si spera che la musica che ci ha portato fino a qui porterà dentro ogni giorno un po' di venerdì.